E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Ritorniamo con gli ospiti in studio, stavolta dal veneziano. È venuta a trovarci una stoner band che ci presenterà il suo disco. A voi le presentazioni. Ciao a tutti, sono Luke, bassista dei Mexican White Sky. Ciao Enrico, voce e chitarra. Un saluto anche a Demis che non è potuto venire perché ha un problema con suo papà, che poverino è in ospedale. Facciamo grossi auguri. E con i Mexican Whiskey, un viaggio nella storia dell'hard rock degli anni 70, underground e non, sponda americana ed inglese. Primo brano ascoltato era degli americani Sir Lord Baltimore, trio guidato dal batterista e cantante John Garner, si intitolava Kingdom Come ed è tratto dal disco omonimo del 1970. Il passato c'era sempre qualche sorpresa, che ne dite? Realmente sì, perché io non li conoscevo e è stata una peggiore sorpresa comunque. Un assunto della vostra cronistoria e il significato del vostro nome. Beh, questa formazione è nata un anno e mezzo fa. Prima c'erano stati di precedenti, avevamo un altro bassista che poi ci ha lasciato purtroppo, ma no, abbiamo recuperato Luke. E poi insomma ci siamo messi in sesto e abbiamo cominciato a suonare, a fare live. Tutto lì? Va bene, si continua con i Mountain, il trio hard blues guidato da Leslie West, dal disco Climbing del 1970 con il classico Mississippi Queen. Mississippi Queen, she taught me heaven. Una band amata dai musicisti e forse meno dal pubblico. Voi che ne dite? Beh, i Mountaineer sono molto forti e a me piacciono. Però, anche a me. E quindi dei musicisti. Sì. Beh, comunque magari un po' meno da... Non sono stati tra i più famosi, però certo, avevano delle belle sonorità. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e cosa ne pensa il vostro pubblico? Beh, nostre esibizioni live, per fortuna, nel 2009 abbiamo suonato parecchio, qualcosa come 40 date. Però? Diciamo che ci accontentiamo, perché visto i tempi che corrono, e comunque a noi interessa suonare live, molto live. E la gente, abbiamo visto che risponde molto alle nostre esibizioni. Quello che ci fa piacere è che comunque vediamo che... anche se siamo solo in tre, riusciamo ad esprimere un'energia. A fare per 40. Esatto, perché l'importante, noi abbiamo sempre come concetto di base il wall of sound, il classico muro di suono, e riusciamo a farlo abbastanza bene. Per chiudere questa parte, un brano dei Grand Funk Railroad, forse una delle band più amate dai rocker americani nei primi anni 70. Dal disco Grand Funk del 1969, il brano Inside Looking Out. Proseguiremo poi per la seconda parte dopo gli spot. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me, but I don't want no sympathy. No, baby. No. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The ocean beating me, I drive.